Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel'Ami di Guy de Maupassant. Introduzione di Massimo Raffaeli. La proporzione tra la vita di Guy de Maupassant e il numero delle pagine scritte ha qualcosa di inquietante, persino di mostruoso. Maupassant era nato a Dieppe, in Normandia, nel 1850, ma aveva bruciato la sua grande, immensa energia di scrittore in pochissimi anni. Visse nella Terza Repubblica, detta anche la Repubblica dei Professori. Il 6 luglio dell'893 era già morto a soli 43 anni e in un manicomio a Passy. Allievo di Balzac, si direbbe raccomandato da Flaubert e esordiente grazie a Zola, questo maestro del naturalismo, appunto in 10 anni, pubblica qualcosa come 7 romanzi, 3 libri di viaggio, 300 racconti e, come se non bastasse, una raccolta di poesie. Bel'Ami esce nel 1885, nell'epicentro di questa specie di ciclone che per noi oggi è leggendario. Noi conosciamo anche la silhouette di quel giovane normanno. Era un ragazzo bello, robusto, coi baffi a manubrio, campione di canottaggio, una specie di collezionista di donne, anzi di femmine, e naturalmente un vero grafomane. Per la sua furia gli amici lo chiamavano il toro triste. Uno scrittore italiano, un secolo dopo Bel'Ami, Alberto Savinio, di lui scrive questo: i racconti di Maupassant corrono, partono faticosamente a dir il vero, stentano a mettersi in marcia proprio come i treni, ma finalmente prendono l'avvio e allora nel loro ritmo spedito ma duro non hanno altra fretta se non di arrivare alla fine. Ecco, dove vuole arrivare Bel'Ami? Il protagonista, Georges Duroy, vuole arrivare in fondo al suo destino, e questo significa arrivare alla propria e completa affermazione, senza scrupoli e ad ogni costo. Georges è un provinciale, un ignorante e un senza mestiere. Di lui Maupassant scrive: tasche vuote e sangue bollente, oppure aveva la parola facile ma banale. In poche parole, Georges diventa una star del giornalismo, un giornalismo che è intrigo, maldicenza, corruzione e menzogna. E qui Maupassant dice: erano rivenditori di commedia umana un tanto a rigo. E lo stesso Georges, passando sul corpo di tutte le donne che seduce, di volta in volta, le trasforma, dopo averle annientate, in altrettante rampe di lancio. C'è un vero e proprio catalogo di donne, di sue serve, potremmo dire così, in Bel'Ami: la sensuale Clotilde, amante ideale, poi l'astuta Madeleine, la moglie ripudiata, quindi la ricchissima Madame Voltaire, la quale si inoltra nella follia per far posto alla figlia Suzanne, una ereditiera adolescente che è l'ultimo trofeo di Georges e dunque il suggello dell'ascesa sociale. Sesso, sangue, soldi. Nessuno degli ingredienti della letteratura naturalista manca a Bel'Ami. Maupassant ne trae un personaggio davvero immortale. Georges è un campione di quelli che lo scrittore chiamava onorati cialtroni, vale a dire un uomo competitivo, famelico, egoista, teso solo alla propria affermazione. Cioè un uomo perfettamente attuale e, senza che Maupassant potesse immaginarselo, un eroe del nostro tempo, il solo eroe possibile. Avuto dalla cassiera il resto alla sua moneta da 5 franchi, Georges Duroy uscì di trattoria, sfoggiando il suo bel portamento, naturale in parte e in parte posa ad ex sottufficiale, spinse in fuori il petto, s'arricciò i baffi con gesto militaresco divenutogli abituale e lanciò su quanti erano ancora a tavola una rapida occhiata avvolgente, una di quelle occhiate da bel giovanottone gittate a tondo come il giacchio in mare. Le donne avevano sollevato il capo per guardarlo, tre ragazze di fabbrica, una maestra di pianoforte di mezza età, spettinata, trasandata, sempre col solito cappellino eternamente polveroso e il solito abito sbilenco, e due borghesucce con relativi mariti, abituali clienti della gargotta a prezzo fisso. Sul marciapiede sostò un attimo, immobile, chiedendosi come si sarebbe regolato. S'era al 28 di giugno e gli restavano giusti giusti in tasca 3,40 franchi per arrivare alla fine del mese, il che voleva dire o due desinari senza cena o due cene senza desinare, a sua scelta. Dato che i pasti del mattino costavano 22 soldi anziché 30 come quelli serali, pensò che se si fosse contentato del solo desinare gli sarebbe rimasto un margine d'un franco e 20 centesimi, sufficiente per aggiungere due spuntini con pane e salame, più due boccali di birra sul boulevard. Solito scialo questo e solita follia d'ogni sua notte. E s'avviò giù per Rue Notre-Dame-de-Lorette. Camminava come quando era ancora in uniforme d'ussaro, impettito, le gambe un po' divaricate, quasi fosse appena smontato da cavallo. E procedeva brusco nella via piena di folla, urtando di spalle la gente, regalando spintoni per non spostarsi dalla sua rotta. Pur indossando un vestito da non più di 60 franchi, aveva in sé una certa vistosa eleganza, un po' volgaruccia, ma innegabile. Alto, ben costrutto, biondo, d'un biondo castano vagamente strinato, con un paio di baffi arricciati che sembravano spumeggiargli sul labbro, due occhi azzurri, limpidi, bucati da una pupilla piccolissima, e i capelli naturalmente ricci, spartiti nel bel mezzo della scriminatura, pareva proprio il cattivone dei romanzi popolari. Era una di quelle serate estive in cui l'aria manca a Parigi. La città, calda come una stanza termale, sembrava in piena traspirazione nella notte afosa. Le fogne fiatavano dalle loro bocche di granito aliti pestilenziali e le cucine sotterranee riversavano sulla strada, dalle finestrelle rasoterra, i miasmi immondi delle rigovernature e degli intingoli andati a male. I portinai in maniche di camicia, a cavalcioni d'una seggiola di paglia, fumavano la pipa sul portone e i passanti camminavano prostrati a capo scoperto col cappello in mano. Raggiunto il boulevard, Georges Duroy si fermò ancora una volta, non sapendo nemmeno lui che fare. Gli era venuta voglia adesso d'arrivare fino agli Champs-Élysées e fino all'Avenue du Bois de Boulogne per trovare un po' di fresco sotto gli alberi, ma un altro desiderio lo pungeva, quello d'un'avventura amorosa. Sotto quale specie gli si sarebbe offerta? Non ne aveva idea, ma la stava sospirando da 3 mesi, ogni giorno, ogni sera. Talvolta, è vero, grazie alla sua avvenenza e ai suoi modi galanti, un po' d'amore riusciva a rubacchiarlo qua e là, ma continuava a sperare in qualcosa di più e di meglio. Comunque, i posti trafficati dalle prostitute gli piacevano, le loro salette da ballo, i loro caffè, le loro strade. Gli piaceva sfiorarle col gomito, parlar con loro, dar loro del tu, aspirarne i violenti profumi, sentirsele accanto. Erano donne, dopo tutto, delle dispensiere d'amore. Non le disprezzava affatto, di quel disprezzo che è innato in ogni brav'uomo di casa. Svoltò verso la Madeleine e seguì l'onda della folla che scorreva oppressa dal caldo. Giunto all'angolo di Place de l'Opéra, Duroy si imbatté in un grosso giovanotto, la cui faccia, che doveva aver già visto da qualche parte, non gli riusciva del tutto nuova. Prese a seguirlo, cercando nei suoi ricordi e ripetendo a bassa voce: «Dove l'ho conosciuto quello lì?» Frugava nella mente senza riuscire a ricordare, finché d'improvviso, per uno strano fenomeno della memoria, quello stesso individuo gli parve meno voluminoso, più giovane, in uniforme d'ussaro. Esclamò ad alta voce: «Ma to, forestier!» E allungato il passo, gli diede un colpetto sulla spalla. L'altro si voltò, lo guardò, poi fece: «Beh, che vuole da me?» Duroy si mise a ridere. «Non mi riconosci?» «No. Georges Duroy, del Sesto Ussari.» Forestier tese entrambe le mani. «Oh, carissimo, come stai?» «Benone, e tu?» «Ma mica troppo bene. Coi polmoni di cartavelina che ho adesso puoi figurarti. Tossisco 6 mesi su 12 per colpa di una bronchite che mi buscai a Bougival l'anno del mio ritorno a Parigi, 4 anni fa ormai. Ma guarda, eppure hai un aspetto robusto.» E Forestier, preso il braccio del vecchio compagno d'armi, cominciò a parlargli della sua malattia. Gli disse dei consulti, dei pareri e delle prescrizioni dei medici, delle difficoltà di seguirne i consigli nella sua posizione. Gli si ordinava di passare l'inverno nel mezzogiorno, ma come poteva? Era sposato, giornalista, sistemato bene. «Sono un redattore politico della Vie Française. Curo le cronache parlamentari al Salut e di quando in quando scrivo articoli letterari per la Planète. Già, ho fatto strada.» Duroy lo guardava sorpreso. Era molto cambiato. Era proprio diventato una persona matura. Aveva adesso un portamento, una compostezza, un modo di vestire da uomo posato, sicuro di sé, e la pancetta di chi suol mangiar bene. Prima era magro, smilzo e agile, sventato, spaccone, rumoroso e sempre un po' alticcio. In 3 anni Parigi ne aveva fatto un tipo completamente diverso, grosso e serio, con qualche capello bianco alle tempie, quantunque non avesse più di 27 anni. Forestier domandò: «Dove te ne vai?» Duroy rispose: «Da nessuna parte. Sto facendo un giretto prima di rincasare.» «E allora perché non m'accompagni fino alla Vie Française? Devo correggere le bozze del mio articolo. Poi ce ne andremo insieme a prendere una birra.» «Volentieri.» E s'avviarono a braccetto, con quella familiarità che è naturale fra compagni di scuola o d'armi. «Che fai di bello a Parigi?» domandò Forestier. Duroy si strinse nelle spalle: «Crepo di fame, nient'altro. Finita la ferma, volli venire qui per far fortuna, o meglio, per vivere la mia vita a Parigi. Sono già 6 mesi che faccio l'impiegato alle Ferrovie Nord, a 1500 franchi l'anno, non un centesimo di più.» Forestier mormorò: «Capperi, non c'è da scialare.» «A chi lo dici? Ma come vuoi che ne cavi le gambe? Sono solo, non conosco nessuno, non so a chi appoggiarmi. La buona volontà non mi manca, sono i mezzi.» Il vecchio compagno d'armi lo misurò con un'occhiata da uomo pratico che sa giudicare i suoi polli. Poi disse convinto: «Vedi, ragazzo mio, qui tutto dipende dalla faccia tosta. Per un uomo niente niente scaltro è più facile diventare ministro che capufficio. Bisogna sapersi imporre, non chiedere. Ma come diavolo è possibile che tu non abbia trovato qualcosa di meglio d'un impiego alle Ferrovie Nord?» Tacque. Rifletté per qualche istante, poi domandò: «La licenza liceale ce l'hai?» «No, ho fatto Cilecca 2 volte. «Non fa nulla. Gli studi li hai comunque portati a termine. Se parlano di Cicerone o di Tiberio, pressappoco sai di che si tratta, no?» «Sì, pressappoco.» «Bene. Nessuno ne sa più di te, tranne una ventina di imbecilli che non sanno cavare un ragno da un buco. Non è mica difficile, sai, passar per un cannone. Basta non farsi beccare in flagrante delitto di ignoranza. Bisogna sapersi destreggiare, schivare le difficoltà, aggirare l'ostacolo, e basta un dizionario per chiudere il becco al prossimo. Gli uomini sono tutti stupidi come oche e più ignoranti d'un bue. Parlava con tono tranquillo di chi sa il fatto suo e conosce la vita. Giunsero sul boulevard Poissonnière, davanti ad una grande porta a vetri, dietro la quale erano incollate le due facciate d'un giornale aperto. Tre persone erano ferme a leggerlo. Sulla porta, a mo' di richiamo, si spiegava a grandi lettere di fuoco disegnate dalle fiammelle del gas la scritta «La vie française». E la gente a passeggio, entrando bruscamente nel fascio luminoso di quelle tre parole splendenti, appariva d'un tratto in piena luce, ben visibile, precisa e netta come a giorno fatto, per tornar tosto nell'ombra. Forestier spinse i battenti e disse «Entra!» Duroy entrò. Salì una scala lussuosa e sporca, esposta a tutti i passanti. Raggiunse un'anticamera dove due fattorini salutarono il suo compagno. Poi si fermò in una specie di saletta d'attesa, polverosa e frusta, addobbata di falso velluto d'un verde ingiallito, cosparso di macchie e qua e là liso come se l'avessero rosicato i topi. «Siediti», disse Forestier, «torno fra 5 minuti», e scomparve da uno dei tre usci del salottino. Forestier riapparve a braccetto d'un giovanottone lungo e magro d'una trentina o quarantina d'anni, in abito nero e cravatta bianca, molto bruno, che, coi baffi arricciati in punte affilate, aveva un'aria arrogante e pienamente soddisfatta di sé. Forestier gli disse «Addio, caro maestro!» L'altro gli strinse la mano. «Arrivederci, mio caro!» E scese la scala fischiettando con la mazza sotto il braccio. Duroy domandò «Chi è?» «È Jacques Rival, sai, il famoso articolista, lo spadaccino. È venuto a correggere le sue bozze. Garin, Montel e lui sono i tre migliori cronisti brillanti ed attualità che abbiamo a Parigi. Qui si beccano 30.000 franchi l'anno per 2 articoli la settimana». Stavano per andarsene, quando incontrarono un ometto zazzeruto, pingue, dall'aspetto poco pulito, che saliva le scale stronfiando. Forestier salutò sprofondandosi e disse «È Norbert de Varenne, il poeta, l'autore dei soli morti. Ogni suo racconto ci costa 300 franchi e i più lunghi non superano le 200 righe. Ma andiamo al Napolitain, comincio a crepar di sete». Appena seduti al tavolino del caffè, Forestier ordinò 2 birre e tracannò il suo bicchiere d'un sol fiato, mentre Duroy beveva centellinando, assaporando la sua birra e gustandola come cosa preziosa e rara. Il suo compagno taceva, pareva sopra pensiero. Poi d'improvviso domandò «Perché non provi a fare il giornalista?» L'altro lo guardò sorpreso, poi disse «Ma se non ho mai scritto un rigo?» «Oh, si tenta, si comincia. Vedi, potresti essermi utile andando in cerca di informazioni, sbrigando certe pratiche, visitando la gente. Potresti avere, inizialmente, 250 franchi al mese e le carrozze pagate. Vuoi che ne parli al direttore?» «Puoi figurarti se non voglio». «Fa una cosa, allora. Domani vieni a cena da me. Ci saranno soltanto 5 o 6 invitati. Il principale Valtaire consorte, Jacques Rival e Norbert de Varenne, che hai visto orora, più un'amica di mia moglie. Intesi?» Duroy, diventato rosso, esitava perplesso. Infine mormorò «È che non ho un vestito adatto». Forestier rimase stupito. «Non hai un abito da società? E che cavolo! Una cosa così indispensabile! A Parigi, vedi, meglio non avere il letto che l'abito da cerimonia». Poi, d'improvviso, frugando nel taschino del panciotto, tirò su un pizzico di monete d'oro, prese 2 luigi, li pose davanti al suo vecchio compagno d'armi e con voce cordiale e amichevole gli fece E li renderai quando potrai. Prendi a Nolo o compra un tanto al mese, dando un acconto, i capi di cui hai bisogno. Insomma, arrangiati. Ma vieni a cena a casa mia domani alle 7:30 al numero 17 di Rue Fontaine. Duroy, confuso, prese il denaro balbettando. Sei veramente gentile. Ti son tanto grato. Sta certo che non dimenticherò. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.